saranno tre pulmini che inizieranno, partiranno dal sud, a Catania, in particolare a Sigonella, il 28, a Genova, sempre il 28, e a Trieste. Questa è la partenza ufficiale di questo pulmino. E ripercorreranno tutte le tappe delle segnalazioni che siamo riusciti a cogliere, perché le altre gli abbiamo detto fate staffette, incontratevi lì, ma insomma... E partiranno e porteranno con loro tre semplici gesti che chiediamo nel passaggio. La raccolta, una raccolta di firme sulle bandiere fatte dai gruppi locali, cioè una scuola, un'associazione, un comune, porterà le firme sulle bandiere che poi saranno raccolte e apriranno la manifestazione del 20. Qui sarà un grande patchwork iniziale, una raccolta di queste bandiere messe insieme che apriranno la manifestazione, anche proprio per segnare che quelle firme sono quelle persone che nei territori ogni giorno lavorano sui temi della pace. La seconda cosa è una consultazione popolare, direi simbolica, che pone tre quesiti di fondo alle persone che incontra, cioè siete d'accordo col ritiro delle truppe? Siete d'accordo che all'interno della Costituzione europea si inserisca quello che è un po' l'articolato, l'articolo 11 della Costituzione italiana, cioè il ripudio della guerra come strumento di offesa? E il quarto è, siete d'accordo, il terzo è, siete d'accordo per una politica di disarmo, che significa riduzione delle spese militari, riconversione dell'industria bellica, smilitarizzazione dei territori, insomma una serie. E questi quesiti saranno raccolti da delle urne e saranno poi presentati durante la manifestazione del 20, l'insieme.